E adesso torniamo alla storia, ma prima il nuovo vocabolario. Ascolti e ripeta. Almeno. At least. Almeno. Detesto. I detest. Detesto. Il fumo. Smoking. The smoke. Il fumo. In comune. In common. In comune. Ed ora ecco il dialogo completo fra Sara e Lorenzo andando alla macchina. Walking to the car. Andando alla macchina. Beh, è ora di tornare a Firenze. I have never met so many new people in one single day. Usciamo. I'm shattered. Anch'io. Sono stanco morto. Morto? Yes. Like dead. Oh, yes, me too. That Mr. Vanini, he talked for hours. Sì, per ore. E quante sigarette. Oh, yeah, my God. 30. Almeno 30. Io detesto il fumo. Oh, really? So do I. Anche lei? Abbiamo qualcosa in comune.